rimba jami. Kalau nak tahu, kalau nak tahu di rimba jami, bagai teratai hai condong kelubu, condong kelubu, bagai teratai, aduh hai sayang hai condong. Thank you.